Capitolo 9. Elizabeth passò la maggior parte della notte nella camera della sorella e la mattina fu lieta di poter dare una risposta abbastanza confortante alle domande che molto di buon'ora il signor Bingley le rivolse per mezzo di una cameriera e a quelle che poco più tardi le fecero le due eleganti dame di compagnia delle sorelle di lui. Nonostante questo miglioramento, tuttavia, chiese di poter mandare un biglietto a Longbourn, esprimendo il desiderio che la mamma venisse a trovare Jane in modo da formarsi un giudizio personale sulla situazione. Il biglietto venne subito inviato e con la stessa rapidità venne appagato il desiderio che vi era espresso. Subito dopo la colazione del mattino, la signora Bennet, accompagnata dalle due figliole minori, raggiunse la dimora di Netherfield. Se avesse trovato Jane apparentemente in pericolo, la signora Bennet ne sarebbe stata molto afflitta, ma confortata al vedere che la malattia della figlia non destava allarme di sorta, non si augurò appunto che guarisse subito, poiché la riacquistata salute avrebbe probabilmente significato per lei l'allontanamento da Netherfield. Non volle dar retta perciò alla proposta della figliola di essere trasportata a casa, né lo speziale arrivato proprio allora lo ritenne consigliabile. Dopo essersi trattenuto un momento con Jane, all'apparire della signorina Bingley e dietro suo invito, la madre e le tre figlie la seguirono nella saletta della colazione. Bingley andò al loro incontro esprimendo la speranza che la signora Bennet non avesse trovato la signorina Jane peggio di quanto si aspettasse. Purtroppo sì, invece, signore, gli fu risposto. È assolutamente troppo malata per poterla trasportare. Il dottor Jones dice che non ci dobbiamo neppure pensare. Siamo costretti ad abusare ancora un poco della sua gentilezza. Trasportarla, esclamò Bingley. Non c'è neppure da pensarci. Sono sicuro che mia sorella non vorrà nemmeno sentirne parlare. Stia tranquilla, signora, disse la signorina Bingley con fredda cortesia, che la signorina Bennet sarà fatto segno a tutte le premure possibili finché si tratterrà qui con noi. La signora Bennet si profuse in ringraziamenti. Se non fosse per merito di così buoni amici, non so davvero che cosa sarebbe stato di lei. È veramente molto ammalata e soffre assai. Benché sopporti il dolore con estrema pazienza, come fa sempre del resto. Mia figlia ha senza eccezione il carattere più dolce che lo abbia mai incontrato. Lo dico spesso alle altre mie figliole che loro, in confronto a Jane, non valgono nulla. Ma com'è carina questa stanza, signor Bingley, con una così bella vista sul viale inghiaiato. Non conosco posto paragonabile a Netherfield in tutta questa regione. Spero che non penserà di abbandonarlo tanto presto, sebbene il suo contratto sia a breve scadenza. Tutto quello che faccio lo fa in gran fretta, egli rispose. Quindi, se dovessi decidermi a lasciare Netherfield, 5 minuti dopo sarei già partito. Per il momento, però, mi considero stabile qui. È precisamente quello che mi sarei immaginata sul suo conto, disse Elizabeth. Lei incomincia a capirmi, non è vero? Egli esclamò, voltandosi verso di lei. Oh sì, la capisco perfettamente. Vorrei poterlo interpretare come un complimento, ma ho timore che l'essere tanto trasparente sia una qualità piuttosto meschina. Per solito è così, ma non ne consegue necessariamente che un carattere profondo e complicato sia più o meno degno di stima di una persona come lei. Lizzy, esclamò sua madre, ricordati dove ti trovi e non continuare con codeste maniere sgarbate che ti si tollerano a casa. Non sapevo, continuò Bingley senza interrompersi, che lei si dedicasse allo studio dei caratteri. Deve essere interessante. Sì, ma i caratteri complessi sono i più divertenti. Hanno perlomeno questa superiorità. La campagna, interloquì Darcy, offre in generale scarsa materia per un simile studio. Nell'ambiente campagnolo ci si muove sempre in mezzo a una società assai limitata e poco mutevole. Ma gli individui di per sé cambiano tanto, che c'è sempre qualcosa di nuovo da osservare in loro. Proprio! Esclamò la signora Bennet, risentita da quelle sue allusioni alla vita campagnola. Le assicuro che in campagna succedono le stesse cose tal quali precise come in città. Ci fu un certo stupore generale e Darcy, dopo averla guardata per un istante, le volse le spalle in silenzio. Sicura di aver riportato vittoria completa su di lui, la signora Bennet proseguì trionfante. Per conto mio, non riesco a capire i grandi vantaggi che Londra presenta sulla campagna se si eccettuano i negozi e i ritrovi pubblici. La campagna è di gran lunga più piacevole, non è vero, signor Bingley? Quando sono in campagna, rispose questi, non ho mai voglia di andarmene, e pressa poco lo stesso mi accade quando mi trovo in città. Hanno ognuna delle due i loro vantaggi e io vivo ugualmente felice nell'una come nell'altra. Già, questo le capita perché lei è sempre ben disposto, ma quel signore, e lanciò un'occhiata a Darcy, sembrava non tenere in nessun conto la campagna. Ma no, mamma, lei si sbaglia, fece Elizabeth arrossendo per sua madre. Lei ha frainteso completamente il signor Darcy. Voleva dire soltanto che in campagna non si incontra la varietà di persone che si incontra in città, e questo è vero, deve convenirne. Certo, cara. Nessuno ha detto il contrario. Ma quanto a non conoscere gente in questo ambiente, no. Io direi anzi che è difficile incontrarne di più. Noi stessi, io lo so, frequentiamo 24 famiglie. Soltanto per un riguardo a Elizabeth, Bingley riuscì a trattenere le risa. Sua sorella fu meno delicata e rivolse uno sguardo al signor Darcy con un sorriso molto espressivo. Tanto per dire qualcosa che sviasse i pensieri di sua madre, Elisabeth le chiese allora se Charlotte Lucas si fosse fatta vedere a Longbourn dopo che lei ne era venuta via. Sì, è venuta ieri con suo padre. Che persona simpatica è Sir William. Signor Bingley, non le pare? Così uomo di mondo, così aristocratico, eppure così affabile. Ha sempre qualcosa da dire a tutti. Ecco, è proprio il mio modello di buone creanze. E certe persone che si credono di essere chissà chi e non aprono mai bocca, ne falsano il concetto. Si è fermata a pranzo da voi, Charlotte? No, ho voluto tornare a casa. Credo che ci fosse bisogno di lei per le frittelle. Io invece, signor Bingley, tengo sempre i domestici capaci di svolgere il proprio lavoro. Le mie figliole sono educate diversamente. Ma ognuno deve badare ai fatti suoi e le Lucas sono buonissime ragazze, gliele assicuro. Peccato che non siano belle. Non che Charlotte io la giudichi proprio bruttissima, ma è anche vero che è la nostra migliore amica. Sembra una giovane molto simpatica, disse Bingley. Oh mio Dio! Sì, ma devo ammettere che è piuttosto bruttina. La stessa Lady Lucas me l'ha detto diverse volte, invidiandomi la bellezza della mia Jane. Non mi piace vantare la mia figliola, ma quel che è certo è che Jane non si trova tanto spesso una creatura così bella. E questo a detta di tutti, che non mi fiderei della mia parzialità. Quando non aveva che 15 anni, c'era un giovanotto della città, ospite di mio fratello Gardiner, tanto innamorato di lei, che mia cognata era sicura che l'avrebbe chiesta prima che partissimo. Non lo fece, tuttavia, forse perché la ritenne troppo giovane. Ma scrisse per lei dei versi, e molto graziosi anche. E così il soffetto ebbe fine, interruppe Elizabeth impazientemente. Più di un amore, credo, è stato soffocato allo stesso modo. Chissà chi fu il primo a scoprire l'efficacia della poesia per scacciare l'amore. Io ho sempre considerato la poesia come l'alimento dell'amore, disse Darcy. Può darsi che lo sia, di un bell'amore, sano e vigoroso. Tutto serve ad alimentare ciò che è già forte di per sé. Ma se si tratta soltanto di una passioncella deboluccia e tenue, sono convinta che anche un solo sonetto, per buono che sia, basterà a farla morire di fame. Darcy si accontentò di sorridere e il silenzio generale che seguì fece tremare Elizabeth per il timore che sua madre potesse esporsi nuovamente al ridicolo. La signora Bennet aveva bensì una gran voglia di parlare, ma non sapeva che cosa dire, e dopo una breve pausa cominciò a reiterare i suoi ringraziamenti al signor Bingley per le cortesie usate a Jane, scusandosi in pari tempo del disturbo recato da Lizzy. Il signor Bingley fu gentile senza ostentazione nel risponderle e costrinse sua sorella ad esserlo altrettanto e a dire quello che la circostanza comportava. Ella recitò la sua parte senza molto garbo, per vero dire, ma la signora Bennet apparve soddisfatta e subito dopo ordinò la carrozza. A questo segnale la sua figliola minore si fece avanti. Le due ragazze non avevano fatto che bisbigliare fra di loro durante tutta la visita, e il risultato fu che la più giovane dovesse ricordare al signor Bingley la promessa fatta al suo giungere in campagna di dare un ballo a Netherfield. Lydia era una ragazzona di 15 anni, ben piantata, con una bella carnagione e un viso gaio. Era la beniamina della madre, la cui tenerezza l'aveva portata in pubblico ancora giovanissima. Aveva un che di animalesco e una specie di naturale spavalderia che l'attenzione degli ufficiali, ai quali i buoni pranzi dello zio e la sua disinvoltura l'avevano resa interessante, aveva finito per far degenerare in sfrontatezza. Era perciò molto adatta ad attaccare il signor Bingley sull'argomento del ballo e fu appunto lei che gli ricordò a bruciapelo la sua promessa, aggiungendo che sarebbe stata la cosa più vergognosa del mondo se non l'avesse mantenuta. La risposta a quell'improvviso attacco deliziò alle orecchie della madre. Sono prontissimo, le assicuro, a mantenere l'impegno assunto. E quando sua sorella sarà ristabilita, toccherà a lei, se lo gradisce, stabilire la data precisa del ballo. Ma sono sicuro che lei non sarebbe contenta di danzare mentre sua sorella è ammalata. Lidia si dichiarò soddisfatta. Già, sarà molto meglio aspettare che Jane stia bene, tanto più che a quel tempo il capitano Carter molto probabilmente sarà tornato a Meriton e dopo che le avrà dato il suo ballo, insisterò perché ne diano uno anche loro. Dirò al colonnello Forster che sarebbe una bella vergogna se non lo desse. Dopodiché la signora Bennet se ne andò seguita dalle figlie ed Elizabeth tornò subito da Jane, lasciando il proprio contegno e quello delle sue congiunte ai commenti delle due signore e del signor Darcy. Quest'ultimo, tuttavia, non poteva essere indotto a nessun costo ad unirsi alle loro critiche su Elizabeth, nonostante tutte le frecciate della signora Bingley sui begli occhi di lei. Capitolo 10. Quel giorno passò pressappoco allo stesso modo del precedente. Nella mattinata la signora Hurst e la signorina Bingley avevano trascorso alcune ore con la malata, che sebbene lentamente continuava a migliorare. La sera Elizabeth raggiunse la compagnia in salotto. Il tavolino da gioco, tuttavia, non comparve. Il signor Darcy era intento a scrivere e la signorina Bingley, seduta vicino a lui, sorvegliava il progredire della lettera e distoglieva continuamente l'attenzione dello scrivente, affidandogli delle ambasciate per la sorella. Il signor Hurst e il signor Bingley giocavano a picchetto e la signora Hurst seguiva le fasi della partita. Elizabeth prese un lavoro d'ago e si divertì piuttosto a seguire ciò che succedeva fra Darcy e la sua compagna. I perenni elogi della fanciulla, o alla calligrafia di lui, o alla regolarità del suo scritto, alla lunghezza della lettera, e la perfetta indifferenza con la quale erano accolte quelle lodi, formavano uno strano dialogo e rispondevano in modo preciso all'opinione che Elizabeth si era fatta di ciascuno dei due. Come sarà felice la signorina Darcy di ricevere codesta lettera? Egli non diede risposta di sorta. Lei scrive in modo particolarmente veloce. Si sbaglia, scrivo piuttosto lentamente. Chissà quante lettere avrò occasione di scrivere nel volgere di un anno. Lettere d'affari pure. Che antipatia ci proverei io. Allora è una fortuna che tocchi a me di scriverle piuttosto che a lei. Dica per favore a sua sorella che ho una gran voglia di vederla. Gliel'ho già detto una volta, secondo il suo desiderio. Temo che la pena non le vada bene. Lasci che gliela temperi io. Sono uno specialista in materia. La ringrazio, ma le mie me le tempero sempre da me. Come fa a scrivere in modo così ordinato? Egli non rispose. Dica a sua sorella che sono lietissima di sentire dei suoi progressi nell'arpa e le comunichi per favore che sono addirittura rapita dalla bellezza di quel suo disegno per tavolino, che trovo di gran lunga superiore a quello eseguito dalla signorina Grantley. Mi permette di differire i suoi rapimenti alla mia prossima lettera. Questa volta non ho abbastanza spazio per dare loro degna ospitalità. Oh, poco male. In gennaio la rivedrò. Ma le scrive sempre così belle e lunghe lettere, signor Darcy? Di solito sono lunghe, sì, ma che siano sempre belle non spetta a me affermarlo. Io ho per norma che una persona che sappia scrivere una lunga lettera con facilità non può scrivere male. Questo non è un complimento per Darcy, Caroline, esclamò suo fratello. Egli non scrive con facilità. Si preoccupa troppo di infarcire i suoi scritti di paroloni. Non è vero, Darcy? Il mio stile è assolutamente diverso dal tuo. Oh, esclamò la signorina Bingley. Charles è quanto mai trascurato nello scrivere. Tralascia metà delle parole e il resto lo macchia di inchiostro. Le idee mi sorgono così rapide che non ho tempo di esprimere, il che significa che molto spesso le mie lettere non spiegano affatto il mio pensiero e i miei corrispondenti. La sua modestia, signor Bingley, intervenne Elizabeth, disarma qualsiasi critica. Nulla di più ingallevole, ribatté Darcy, di una modestia apparente. Essa equivale spesso a negligenza di giudizio, talvolta a una forma indiretta di vanteria. A quale dei due equivarrebbe, secondo te, il mio piccolo atto di umiltà di poc'anzi? Alla vanteria indiretta, poiché tu sei in fondo orgogliosa dei tuoi difetti di stile, visto che li consideri originati da rapidità di concezione e da negligenza di esecuzione. La quale ultima, se non lodevole, è quantomeno a tuo giudizio altamente interessante. La capacità di far presto le cose è sempre tanto apprezzata da chi la possiede che spesso egli non tiene conto dell'imperfetta esecuzione. Quanto stamani hai detto alla signora Bennet che una volta deciso a lasciare Netherfield te ne saresti andato in 5 minuti, tu intendevi fare una specie di panegirico di te stesso. Volevi farti un complimento. Eppure, che cosa ci può essere di tanto lodevole in una precipitazione che porta a lasciare incompiuti affari importantissimi e non può riuscire di vero giovamento né a te stesso né agli altri? Via, esclamò Bingley, questo è troppo. Ricordare ancora la sera tutte le sciocchezze che si sono dette la mattina. Tuttavia, te ne do la mia parola d'onore. Ho creduto di dire il vero parlando così di me stesso e lo credo tuttora. O almeno non ho assunto l'atteggiamento dell'uomo inutilmente precipitoso nelle sue decisioni soltanto per farmene bello davanti alle signore. Sono convinto che tu ci abbia creduto, ma non sono affatto convinto che te ne andresti con tanta rapidità. La tua condotta dipenderebbe dal caso, per te come per chiunque altro di mia conoscenza. E mentre stai per montare a cavallo, un amico ti dicesse: Bingley, faresti meglio rimanere fino alla settimana ventura? Tu probabilmente rimarresti, probabilmente dico, non te ne andresti e basterebbe un'altra parola per farti magari restare un mese. Con questo, esclamò Elizabeth, lei ha soltanto dimostrato che il signor Bingley non è stato abbastanza giusto nei propri confronti. Ora, lei l'ha messo in valore molto più di quanto non abbia fatto egli stesso. Le sono infinitamente grato, disse Bingley, di aver mutato le parole del mio amico in un complimento per la rendevolezza del mio carattere. Ma temo che lei stia dando alle cose una piega che non era affatto quella intesa da codesto signore, poiché egli migliorerebbe certo la sua opinione nei miei confronti se in quella ipotesi io opponessi un preciso rifiuto e me ne galoppassi via il più velocemente possibile. Allora il signor Darcy giudicherebbe che con una simile tenacia di propositi lei avrebbe riscattato la ventezza della sua decisione originale? Parola d'onore, non saprei spiegarlo. Lasciamo che lo dica Darcy. Voi volete che io mi giustifichi per opinioni che a voi piace attribuirmi, ma che non ho mai riconosciuto per mie. Tuttavia, data per ammessa l'ipotesi che voi avete avanzato, si ricordi, signorina Bennet, che l'amico che si suppone abbia desiderato il suo ritorno a casa e il differimento della sua decisione ha semplicemente espresso un desiderio senza motivarne la legittimità? Oh, allora il cedere prontamente di buon grado alle insistenze di un amico non ha valore per lei? Cedere senza convinzione non fa onore all'intelligenza di nessuno dei due. Mi pare, signor Darcy, che lei non ammetta riserve sull'influenza che l'amicizia e l'affetto possono esercitare. Si dà spesso il caso che per un riguardo verso il richiedente, taluno si arrenda prontamente a una richiesta, senza aspettare di essersi indotto dalla ragione. Non parlo in particolare di un'ipotesi come quella da lei affacciata per il signor Bingley. Forse si farebbe meglio ad attendere che la circostanza si presenti prima di discutere la logica del suo comportamento. Ma in casi generali, di ordinaria amministrazione fra amico e amico, nei casi in cui l'uno desidera che l'altro cambi una decisione di non grande importanza, lei penserebbe male di colui che accedesse a tale desiderio senza aspettare di esservi indotto dal ragionamento. Non sarebbe consigliabile, prima di proseguire, stabilire con maggiore precisione il grado di importanza pertinente a tale richiesta e il grado di intimità sussistente fra le parti in causa? Senz'altro, esclamò Bingley, ascoltiamo tutti i particolari senza dimenticarne la statura e la mole relativa. Perché questi elementi, signorina Bennet, avranno maggiore peso nella discussione di quanto lei forse non si immagini. Le garantisco io che se Darcy non fosse in confronto a me l'individuo grande e grosso che è, io non gli porterei la metà del rispetto che gli porto. Dichiaro di non conoscere una creatura più terribile di Darcy in determinate circostanze di tempo e di luogo, a casa sua specialmente, di domenica sera quando non ha nulla da fare. Il signor Darcy sorrise. Ma ad Elizabeth parve di capire che gli fosse abbastanza punto sul vivo e trattenne quindi le risa. La signorina Bingley si risentì vivamente dell'offesa recatagli e fece al fratello le sue rimostranze per la sciocchezza che aveva detto. Capisco il tuo scopo, Bingley, gli disse l'amico. Tu detesti le discussioni filosofiche e vuoi por fine a questa. Forse sì, le discussioni assomigliano troppo alle dispute. Se tu e la signorina Bennet vorrete rimandare la vostra a quando io me ne sarò uscito di qui, ve ne sarò gratissimo. Allora potrete dire di me quello che vi piacerà. Ciò che lei chiede, disse Elizabeth, non costituisce un sacrificio da parte mia e sarebbe molto meglio che il signor Darcy finisse la sua lettera. Il signor Darcy seguì il consiglio e terminò davvero il suo scritto. Dopodiché egli si rivolse alla signorina Bingley e ad Elizabeth perché gli facessero un po' di musica. La signorina Bingley si diresse premurosa al pianoforte e, dopo aver educatamente pregato Elizabeth di cominciare, cosa che questa, con pari cortesia e maggiore convinzione, si rifiutò di fare, si sedette. La signora Hurst si accompagnò nel canto alla sorella e, mentre erano così occupate, Elizabeth non poté a meno di osservare, mentre sfogliava alcuni quaderni di musica sul pianoforte, che gli occhi del signor Darcy si posavano su di lei con molta frequenza. Non supponeva neppure di poter essere oggetto d'ammirazione per un così grand'uomo, e tuttavia ne nutriva dell'antipatia per lei. Era ancora più strano che egli la guardasse. E però la sola cosa che le riuscì di immaginare fu questa: ella aveva attirato la sua attenzione perché c'era in lei, più che in chiunque altro dei presenti, un certo che di non conformista, di reprensibile. Tale supposizione non l'afflisse. Darcy le piaceva troppo poco per tenere la sua approvazione. Dopo aver suonato qualche canzone italiana, la signorina Bingley variò il divertimento con una vivace aria scozzese e poco dopo il signor Darcy, avvicinatosi ad Elizabeth, le domandò: «Signorina Bennet, non si sente invogliata da una simile occasione a ballare un reel?» Ella sorrise, ma non rispose. Egli le ripeté la domanda, alquanto sorpreso dal silenzio di lei. «Oh!» disse allora Elizabeth. L'avevo udita anche prima, ma non ho saputo decidere lì per lì che cosa risponderle. Lei lo so, voleva che io le rispondessi di sì per avere la soddisfazione di disprezzare i miei gusti. Ma a me piace sempre sventare i piani di questo genere, costringendo la gente a ricredersi sui suoi preconcetti. Di conseguenza ho deciso di dirle che non ho affatto voglia di ballare un reel. Ed ora mi disprezzi se ne hai il coraggio. No, davvero che non ne ho il coraggio. Elizabeth, che si era piuttosto aspettata di ferirlo, rimase meravigliata dalla sua galanteria, ma v'era in lei un misto di dolcezza e di birichineria che le rendeva difficile offendere la gente. E Darcy non era mai stato affascinato da nessuna donna quanto si sentiva affascinato ora da Elizabeth. Cominciava a credere davvero che se non fosse stato per l'inferiorità della sua classe sociale, sarebbe stato in un certo pericolo. La signorina Bingley vedeva o sospettava abbastanza per trarne motivo di gelosia e le sue gran premure per la guarigione della cara amica Jane furono incoraggiate dal suo desiderio di sbarazzarsi di Elizabeth. Più di una volta tentò di suscitare in Darcy sentimenti di avversione per l'ospite, parlandogli del loro supposto matrimonio e facendogli un quadro della sua felicità in un'unione del genere. «Spero», gli disse l'indomani mentre passeggiavano insieme nel boschetto di Mortella, «che quando questo inguaribile evento avrà avuto luogo, lei vorrà dare a sua suocera qualche buon consiglio circa i vantaggi di tenere la lingua a posto? E se le riesce, cerchi di guarire la minore delle sorelle dalla sua malattia di correre dietro agli ufficiali? Inoltre, se è lecito parlare di un argomento tanto delicato, si adoperi di tenere a freno quel certo non so che, confinante fra la boria e la sfacciataggine, che è caratteristico della signora del suo cuore. Non altro da proporre per la mia felicità domestica? Oh sì, riservi un posto ai ritratti degli zii Phillips nella sua galleria di Pemberley. Li faccio mettere vicino a quelli del suo prozio, il magistrato. Esercitano la stessa professione, lei lo sa, sebbene in rami diversi. Quanto al ritratto della sua Elizabeth, è meglio che lei non tenti neppure di farlo fare, giacché quale pittore saprebbe rendere giustizia a quegli splendidi occhi? Infatti non sarebbe facile coglierne l'espressione, ma il colore e la forma e quelle ciglia così fini potrebbero essere riprodotte. In quella si imbatterono la signora Arsten e Elizabeth che sopraggiungevano da un altro viale. «Non sapevo che avesse intenzione di fare una passeggiata», disse la signorina Bingley, piuttosto confusa dal timore di essere stata udita. «Ci avete trattato male», rispose la signora Arst, «a scapparvene via senza dirci che sareste usciti». Poi, preso il braccio libero del signor Darcy, lasciò Elizabeth passeggiare da sola. Nel sentiero non v'era posto che per tre. Il signor Darcy comprese la sgarberia e disse subito: «Questo vialetto non è largo abbastanza per tutti, è meglio che ci portiamo sul viale grande». Ma Elizabeth, che non aveva la minima intenzione di restare con loro, rispose ridendo: «No, no, rimangano pure, così formano un gruppetto delizioso e fanno una graziosissima figura. Tanto pittoresco sarebbe guastato dalla presenza di un quarto. Addio!» E si allontanò, gaiamente, di corsa, rallegrandosi tutta nel vagare lì attorno alla speranza di essere nuovamente a casa entro un paio di giorni. Jane era già tanto ristabilita che quella sera stessa contava di lasciare la stanza per qualche ora.